I miei occhi si aprono, dei bagliori li accecano, e ancora non ho coscienza di quel che sarò, dei tratti che poi assumerò, nella vita che ancora non so, che ancora. Le mie mani si muovono in cerca di dita da stringere, e nel cuore ha un fremito questo respiro che domerò, e ancora non so i visi che poi amerò, le parole che poi spenderò, nella vita che ancora non ho, che ancora. Che ancora qui per me è il tempo di iniziare, qui per me è la vita che ancora non ho. Che ancora. Yeah.